Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. La penna è davvero più potente della spada. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew, but through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. Io a 12 anni andavo già ad attaccare i manifesti per le elezioni politiche del 1948 e attaccavo tra l'altro un manifesto che ho sempre cercato di eguagliare come efficacia, non ci sono mai riuscito. Il manifesto diceva: nella cabina elettorale Dio ti vede, Stalin no. So amusing. La gabina, ha detto la gabina elettorale Berlusconi, la gabina. May I say, not in a shy way, oh no, not me, I did it my way. Renzi mette uomini suoi dovunque, nella guardia di finanza, nella polizia, nei servizi segreti. Voglio dire, forse potrei mettere nella cabina elettorale Dio ti vede, Renzi no. Oppure Dio ti vede e io pure. Sì, no, no, non credo. Firmato sì, Dio. Con l'età cala anche la vista, quindi non è che si può arrivare a superare la barriera di una cabina elettorale. Oggi cos'è successo Mancini, Sarri, ma non l'ho sentito però io. No, ma sono cose che sul campo possono accadere, è sbagliato metterle anche sui giornali, renderle pubbliche sul campo. Quindi è sbagliato Mancini a parlarne? Penso di sì, assolutamente. I've had my fill, my share of losing. È tornato Berlusconi alla presentazione del libro di Mirta Merlino. Ha detto anche a un certo punto: gli italiani non mi meritano perché non mi hanno mai dato il 50% più uno di voti. Capita. I did it my... Vabbè, cari amici, cosa pensate qui alle 6:32 minuti a 24 mattino che staremo a spiegarvi perché le banche crollano? No, dai, abbiate pietà, abbiamo trasmissioni di economia, focus economia, poi più avanti se volete lo chiediamo a Oscar Giannino. Perché le borse crollano? No, dai, abbiate pietà, svegliamoci con un po' più di ottimismo. Le 6:32 minuti qui. Dalla gabina elettorale di Silvio Berlusconi siamo pronti. Qui c'è Lorenzo Nespoli in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè in regia. E scriveteci anche i messaggi, come sempre. It was my way. D'altronde il numero lo sapete, è il 349-238-6666. Dai, è il momento di aprire il Parlamento. Apriamolo anche oggi. Apriamo, tiriamo su. Il ministro Boschi, il cui papà oggi ci informa Panorama ha avuto qualche problema giudiziario in passato, Tutto archiviato, archiviato da quel PM che oggi è il procuratore capo di Arezzo, che indaga sempre su Banca Etruria. Tra l'altro su questa cosa di Banca Etruria, veramente, ecco, una cosa sì mi ha colpito, avevo già letta qualche parte ieri, oggi Libero la ripropone. E saluto il vice direttore Massimo De Manzoni. Ciao Massimo, eccoci qui. Buongiorno. Ecco, questo mi ha colpito, sì, delle banche, che per far firmare ad alcune persone ignare e magari anche raggirate a questo punto le obbligazioni, quelle che poi sono diventate carta straccia per alcuni, facevano finta che, ne so, tu avevi le elementari e ti mettiamo che c'hai le superiori o la laurea, dai, no? È mentira. Bella questa, Massimo, questa è bella, questa mi è piaciuta. È incredibile, ma era necessario perché per far figurare nel profilo di rischio che il cliente aveva sufficiente competenza per capire quello che gli stavi vendendo. Anche questo funzionava. È bello, dai, la sciurapina. Il rischio ti chiedevano anche quello. La sciurapina si è trovata magari una laurea a 90 anni che non sapeva di avere. Siamo a Totò Truffa, Sì, sì, sì, esatto. Totò, ma è il paese di Totò d'altronde, ma perché rinnegarlo? Perché dovevamo farlo re a vita. Esatto. Ma insieme a Massimo De Manzoni, vice direttore di Libero, è tornata. Lei è stata richiesta con grande entusiasmo e grande passione. C'era gente che chiedeva i selfie. Dai, datevi Veronica Gentili, buongiorno, come stai? Buongiorno, mi siete mancati molto. Che menzogna. Stava non era credibile? No, un po' più di credibilità, un po' più di passione quando dici queste cose. È che è presto oggi, È come tutte le altre volte quando ti chiamiamo alle 6:30. Hai ragione. No, oggi... stamattina è prima. Stamattina lo è prima, vedi? perché fa freddo. Perché fa freddo. Stamattina è prima. È prima. Anche secondo me. Cioè voi, c'è una protesta, vedi? Attenzione, forse. Ci sono dei giorni che è prima. Oggi era prima. Vabbè, perché nella notte? Che è successo? Abbiamo iniziato alle 6:29, poi è gennaio, c'è buio, fa freddo. Non lo so, oggi ho sentito che ci sono meno 15 gradi a Norcia, quindi state sereni. Tu vai a Norcia a mangiarti il salame, che vai a fare? No, sentivo in radio mentre venivo qui, e un'altra radio, ovviamente, radio Rai 2, sì, si può dire, non è che... E c'era un'ascoltatrice da Norcia, ha detto qua ci sono meno 15 gradi, ma in frazione si arriva a meno 20, e vabbè. Vedi, è come l'America più profonda dove c'è il freddo quello vero, esatto, eccoci qua. Esatto. Io della cosa delle banche, cioè, ma è una cosa complicata, per carità, è una cosa, si può dire, oggi Renzi parla al Sole 24 Ore e dice al nostro supremo direttore che c'è un attacco a qualche banca, ma il sistema è solido. Non lo so, io la riporto, Massimo, la riporto così. Sì, si stanno dicendo tante cose, giustamente, anche perché da un certo punto di vista non è che si possa dire, ragazzi, stanno crollando le banche. Portate via i soldi, subito! Cosa ci potevamo aspettare? No, poi c'è anche del vero in quello che dice, è anche vero che ci sono delle banche che sono... Le banche italiane sono più solide anche di alcune, anzi di molte banche europee. Sì. Abbiamo un problemino, che gli altri si sono sistemati prima che scattasse la tagliola del bail-in, anche con aiuti di Stato. È vero. Noi abbiamo dormito, come spesso ci capita. E adesso? No, noi no, perché alle 6:30 siamo qui, ma sì. Noi intesi come... Va bene. Continua la polemica imperterrita. Oggi ce l'abbiamo con te, così. Va bene. Ma insomma, noi come paese abbiamo dormito e adesso ci ritroviamo un po' più nei guai degli altri. Le banche vengono usate come... Io ho la sensazione, l'abbiamo scritto, che vengano usate un po' come era stato usato lo spread a suo tempo. e quindi siamo sopportati. Adesso dobbiamo pagare. Tra l'altro ricordiamo, il bail-in vuol dire che alla fine chi ha il conto corrente sopra i 100.000 euro, non so, Veronica Gentili per esempio, che ne possiede. Più d'uno, uno sparsi. Cioè tu sei a favore del bail-in perché non te ne frega niente, perché non hai il conto da 100.000 euro in banca. Questi sono i ragionamenti che fai tu, non io. ecco. No, il bail-in in realtà bisognava tenere gli occhi aperti doppiamente e non sono stati tenuti. Quello che un po' mi allarma è che secondo me c'è un po' uno smarrimento e una costernazione collettiva in cui si continua a dire, chiaramente, perché il panico va arginato, quindi bisogna avere fiducia, non sta succedendo nulla, però io invece vedo un po' di confusione generale, al di là di tutto quello che poi accade dietro le quinte, quindi quello che emerge progressivamente, e questo non aiuta a far aumentare la fiducia, cioè dopo tutti quello che è emerso anche sulla vicenda Banca Etruria, sul papà della Boschi, questo da quando De Bortoli è diventato Tiresia, perché in qualche modo, no, lo sentivo odore di massoneria, in realtà attenzione alludeva molto di più. Stiamo entrando in un ambito di grembiulini, attenzione. Eccoci, subito ti sei messo il grembiulino, sei pronto? Sì, certo. Quindi c'è già tutta questa parte qui, e poi invece c'è questa querelle con l'Unione Europea, ma in cui tutti quanti continuano ad essere molto generici, non riescono a prendere una decisione, e questo invece un po' d'ansia la genera. Sì, questo sì, mi genera anche più ansia i 32 gradi ad Adelaide in Australia, come ci informa un ascoltatore che ci sta ascoltando però dall'Australia, e allora arrivi un abbraccio fin laggiù in fondo, come si suol dire. Però Massimo De Banzoni, siete voi che avete tirato fuori sta storia di grembiulini, massoni, paramassoni, pseudomassoni. Sai che l'onorevole Bianconi, due giorni fa qui ha detto: ma pensare che l'Italia sia in mano a quattro teste di cazzo. Adesso io non ci credo molto, però fa molto fascino sempre queste storie, no? Alludendo a Banca Etruria, dai, questo come si chiama? Valeriano Mureddu, Flavio Carboni. Sì, capisci? Sì, i personaggi sono anche pittoreschi per certi versi, anche se Carboni entra e esce da tutti gli scandali italiani. E non è da dire che l'Italia è in mano a questa gente qui. Però raccontare che Papà Boschi andava nell'ufficio di Flavio Carboni a farsi dire come salvare la banca e che il direttore generale... Vabbè, è una notizia. Secondo me era una notizia... Che è anche dell'incredibile, anche un po' dell'incredibile, perché ti fai delle domande, dici ma com'è possibile che insomma il salvataggio di una banca possa passare attraverso certi soggetti? Eppure ti fai delle domande e ti dai anche delle risposte, capisci anche come mai siamo quella banca lì è finita in quelle situazioni. Sono risposte tristi. È vero. Su questo i colleghi di Libero sono stati molto bravi a tirar fuori, secondo me, un risvolto della faccenda che era stato veramente sottovalutato. Cioè, in realtà il papà di Maria Elena Boschi sembrava l'utile idiota strumentalizzato all'interno di una serie di vicende anche da quello stesso consiglio d'amministrazione, e anche appunto in maniera un po' passiva, quindi utilizzato in quanto padre della figlia. Dopodiché, colpo di scena, nel momento in cui sono solo l'utile idiota non ho dei rapporti di quel tipo, se poi mi avvalgo di quel tipo di conoscenze e addirittura mi rivolgo a loro per chiedere chi può fare il direttore generale di quella stessa banca, insomma, dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Però attenzione, ora veniamo alle cose che io queste le maneggio poco, banche, robe, sono anche molto delicate, molto difficili da trattare, la finanza, il petrolio che scende, la Cina che crolla. Sono 24 ore. ho capito, insomma, però ci sono colleghi che ne sanno molto più di me, ma invece mi ha colpito alcune cose. Oggi non ti hanno messo una laurea in economia anche a te per farti ad onore, sì, concorso in finanza. Oggi il Fatto Quotidiano racconta i particolari, perché c'è finalmente un testimone della mega rissa che è scoppiata a Riyadh quando si sono spartiti i Rolex Caro Massimo De Manzoni e Veronica Gentili, si sono spartiti Rolex e oggi Carlo Tecce racconta che a un certo punto il capo dei militari, cioè la missione al seguito, ha urlato a lungo, è partita una quasi rissa con spintoni, insulte, testate simulate. No, hai presente quando nelle risse da bar, Massimo, vieni che ti do una testata? Tenetemi se non ho meno. Esatto, con davanti ai basiti reali sauditi che hanno sentito le urla, e poi Renzi ha sequestrato tutto, ha detto date tutti i regali a me, tutti i regali a me. Che anche quella era un'ottima soluzione, sì, così, sì, no? Sì, sì. Ha sequestrato. È arrivato il professore, ha tolto tutto, adesso ci penso io e poi li ridistribuisco quando torniamo a Roma. Ma altro che Totò, ma voglio dire, ma cioè siamo in giro per il mondo, ci facciamo riconoscere, la rissa per i Rolex, cioè perché hanno visto che ognuno aveva una scatola, c'è qualcuno che aveva una scatola più grande degli altri. Fammi vedere che regalo c'hai dentro, no? E qualcuno che ha scoperto il Rolex e si è ritrovato un cronografo, ha iniziato a tirare, a menare fendenti. Ma infatti i poveri sauditi hanno detto state calmi, domani diamo a tutti quanti lo stesso orologio purché vi calmiate, capito? Esatto, un Rolex. Figure barbine in tutto il mondo. Un Rolex è per tutti, tranquilli. Ma anche loro mettono degli orologi diversi, era chiaro come andava. È chiaro, non si crei nella scolaresca, se compri le figurine mica le puoi comprare diverse ai bimbi. Certo. No. Dei sauditi, dai, diciamolo chiaramente. È colpa loro. La prossima volta su sauditi un bel Rolex da 18.000 euro a tutti, d'oro e via. E via. Tra l'altro il Fatto Quotidiano dice che Renzi ieri sfoggiava un Rolex simile a quello che racconta questo testimone e che dice è chiaro che Renzi si è tenuto il Rolex più bello. Dici che era un'ostentazione, proprio come dire, vabbè, mentre voi parlate io vi do la risposta senza rispondere. C'è una legge c'è una legge, Massimo, c'è una legge. La legge c'è sicuramente, dopodiché io non sono in grado di stabilire così a prima vista, ma il valore. Se quel Rolex lì è esattamente quel Rolex che gli hanno regolato in Arabia Saudita, anche perché io in Arabia Saudita sfortunatamente non c'era, perché avrei partecipato ovviamente. Sì, sì. Avremmo tutti un Rolex. Tra l'altro attenzione perché dice esatto anche ai giornalisti al seguito i sauditi, quindi guarda che magnanimità, vedi? Saranno un po' omertosi a raccontare quello che è successo veramente. È venuta fuori a distanza. È venuta fuori a distanza da chi mi sa che non c'era come giornalista. Carlo Tecce non ha preso il Rolex, secondo del fatto, me no, adesso quindi... chiedo, ma così a intuito credo di no. Vabbè, ma insomma in realtà la domanda che ci pongono tutti dopo il traffico, cercheremo di rispondere a questa domanda cruciale, fondamentale, che dall'altro ieri sera si spande per tutta Italia, è questa: ma Roberto Mancini è gay? Perché questo è il punto, gli italiani, le banche che crollano, il bail-in, e mi scrivono i messaggi, dice ma Mancini è gay sì o no? Voi vi rendete conto? Tra poco tra l'altro c'è Mancini che risponde in maniera definitiva. Alessandro Milan, sei solo traffico e distintivo. Urabro finalmente ha perso, io sono proprio contento. Perché l'allenatore alla fine ha fatto schifo, è scoppiato il pallone. Vergognati, allenatore. Popolo napoletano, dobbiamo fare un'insurrezione contro l'allenatore del Napoli che è stato scostumato. Ma perché Mancini non ha mai giocato calcio? Con tutto quello che diceva agli arbitri quando giocava lui, allora quante volte avrebbe dovuto essere stato cacciato fuori? Ti prego, Lino, fammi sapere quando verranno riassunti le quattro persone licenziate a Sanremo, ti prego, perché tanto sicuramente verranno reintrodotte al lavoro in qualche maniera. Ti prego, tienile sott'occhio. A Milan, je suis Mancini. Ai ai ai ai ai. O Milan, sono fiorentino, stai a sentire. Sei andato a destra, a sinistra, per le ferie, per le feste, hai fatto bene. Stai a sentire la mia condizione. Anch'io ti ospito un weekend dalle mie parti, però la condizione è questa: non mi fa più sentire la Veronica Gentile, sono due palle che sembrano delle mongoliere. Ciao. signore mi ama. Ma perché non andiamo insieme, Veronica? Andiamo a trovare il Fiorentino. Dai. Andiamo. Fiorentino. Io sono pronta. A questo punto dobbiamo andare. Fiorentino, dobbiamo venire a trovarti. C'ha Duvalle come Dumongo. Io l'avviso che sto per venirla a trovare. Lei ci sente, io glielo dico. Tra l'altro, sapete che c'è la tradizione del selfie. Tu, Veronica, potresti mandarcelo col grembiulino. Ah, l'hai già mandato? Mi dicono. Purtroppo. Dovevo attrezzarmi prima. Faceva molto attualità col grembiulino da Massona. Purtroppo no. Il grembiulino non so nemmeno se lo tengo nel mio dress code dell'armadio. Quindi neanche in cucina. I massoni sono solo maschi. Vedi subito la mia ignoranza, ma quindi io non sono della massoneria, avendo dimostrato un'ignoranza basica. No, l'hai detto per mascherare. Magari possono reintegrarti perché c'è una seconda opportunità, viene data a tutti. Vedi, però Federico da Vicenza invece Veronica Gentili, ora la mia giornata è più bella. Sono contrastati le persone. No, non so, ora contrastati. Il signore di Firenze mi odia dal primo giorno. Ora sì. Non è che. Ma no, è il fiorentino, mi chiama. E mi dice, mi manda i messaggi dicendo ormai ci stiamo sui coglioni, io e te lo sappiamo. Cioè, è un po' come il frocio di Sarri. È come Sarri. Infatti, è come il finocchio di Sarri. Visto che io non capisco niente di calcio, hai visto cosa è dovuto succedere? Hanno detto per solo guardare Veronica, che cosa succede in campo. Massimo, devi capire una cosa: Veronica Gentili di calcio non sa nulla. Ma prova a farle una domanda proprio sul calcio. Massimo, non ci provare, ti prego. Dai, ma una qualsiasi, proprio la più facile. Non so chi è l'allenatore della Juve, dai. Ecco. Beh, non lo so. Vedi. Non lo so. Cioè, compete con la nostra Elisabetta Fusconi in redazione, che l'altro giorno ha detto Adriano Galliani. Ma l'ho già sentito, ma chi è? Un allenatore? Ecco, cioè, noi abbiamo a che fare con questo. Io ho avuto un problema perché all'inizio ho letto tutta la polemica Sarri Mancini. Ho detto, che sarà successo? Fammi fare un check subito. Allora ho guardato, ma soltanto perché proprio mi sono sbattuti in faccia, sennò era inevitabile. Vabbè. Comunque, Roberto Mancini oggi risponde a Repubblica. Vero che siete interessati, Massimo? Non attendevi altro a sapere. Mancini. Ma è la notizia del giorno. Assolutamente. È gay o no? E lui ha detto: magari nella foga del discorso si è capito male quello che ho detto. Ho solo detto che se gli uomini fossero tutti come Sarri, allora sarei orgoglioso di essere gay. Ma mi piacciono le donne e solo quelle. È così. Sono gli strascichi ridicoli di tutta questa polemica, che è ridicola in se stessa. Sarri ha sgravato, come si dice. Ha sgravato, termine romano, che però insomma è abbastanza esaustivo di quello che è accaduto. Detto questo, secondo me un po' poi ci si è ricamato sopra. Abbastanza, ma però oggi arriverà la squalifica, Massimo. Che succederà? Allora, ma intanto Mancini ne ha approfittato, ci ha ammazzato. Gli avesse detto stronzo, non avrebbe mai parlato. Ma l'ha detto lui stesso, ma avesse detto pezzo di... Invece, siccome questo è l'epiteto politicamente corretto o scorretto, allora sapeva che sarebbe venuto fuori un gran casino e l'ha fatto. Dopodiché, la cosa che mi diverte di più di tutta la faccenda, che in sé non è proprio divertente, ma insomma la cosa più divertente è che la tesi difensiva dei difensori di Sarri è: ma siccome Mancini non è gay, non è un insulto, è vero. A me danno del negro, come faccio a arrabbiare? È vero, ma tu lo sai che pare che per questo otterrà una squalifica ridotta, forse due giornate, rischia fino a 4 mesi, perché non è omosessuale, perché Mancini è eterosessuale e quindi... Scusami, io come faccio a sapere che Mancini non è omosessuale? A parte che esatto... Io la cosa che trovo un po' ipocrita è che credo che questo tipo invece di insulti vengano utilizzati, cioè questo modo di utilizzare la lingua italiana utilizzando epiteti come questi è molto molto comune, anche in contesti in cui in realtà tutto si pensa fuorché realmente alla sessualità. È esattamente come dire stronzo in macchina, se uno guarda la quantità di improperi tra gli uni e gli altri. Credo che sia una delle parole più utilizzate. Però Mancini, la linea di difesa di Sarri poteva volevo dargli del democristiano, invece gli ho dato infatti, sai cosa dice? Il democristiano non è abituale per strada che ci si dia la guarda al democristiano. Democristiano, mentre... sai cosa dice Mancini? Così ha offeso pure i democristiani. Oh, Mancini, ma che è diventato? Non lo so, però in realtà Mancini fa una bella intervista a Repubblica, dice c'è gente, ci sono ragazzi, ragazze che muoiono perché vengono insultati con queste epiteto, insomma, ha fatto un po' tutta la tigre. Su questo ci si marcia, quindi... preoccupiamoci invece che di Sarri del fatto che ancora stiamo qui a discutere per un decreto sulle unioni civili che non riesce a passare. Essendo anche abbastanza elementare e basico, forse è un po' più utile, no? Comunque mi dicono il fiorentino che odia la Gentile è un po' manciniano, oppure non prendertela in toscano le offese dette con quel tono sono gesti di affetto, di a Veronica di non prendersela. C'è anche chi ci dice che la Veronica col grembiulino deve essere fantastica. Beh, adesso provvediamo al grembiulino. Infatti, e ho visto Veronica Gentile su Google, ma è bellissima, ci scrive questo ascoltatore. Vabbè, che carino, grazie. Lo potevi dire con un po' più trasporto, si è speso, ha speso un messaggio per dire che sei bellissima. Ma che, vabbè, mi imbarazzo adesso. È andata su Google a vedere. Che carino, grazie, ragazzi, con la voce tenera. Vabbè, ma insomma, ecco, a proposito di unioni civili, sentite Gasparri. Gasparri ce l'ha con Elton John. Ma è una vergogna, quello che ha fatto Elton John è uno schifo. È una vergogna, è l'egoismo di un ricco arrogante che ha sfruttato la disperazione del prossimo. Elton John è lo schifo umano che ha fatto questa cosa, è chiaro? Gasparri, io lo dico con chiarezza. Perché ha preso, ha comprato un figlio, insomma ha fatto dei figli da omosessuale, quindi... con l'utero noi in affitto, però quello no? che dice Gasparri non lo commentiamo neanche più. Vabbè, no? Non lo so, De Manzoni, tu che dici? Vietato per legge, no? Elton John, che ne pensi di Elton John? Massimo, è scomparso. Scusa, caduta la linea su questo. Elton John. No, non avevo capito chi dire a me. No, di Elton John è un buon cantante. Ma uno schifo umano. Uno schifo umano. Cioè io ho le mie riserve, le adozioni gay sono assolutamente contrario, soprattutto fatte in questa forma, devo dire la verità, perché comprare non è tanto diverso. Però anche le adozioni eterosessuali, la Angelina Jolie si è appena comprata il sesto figlio. Infatti, forse il settimo addirittura. È andata da una famiglia, gli ha dato un milione di dollari e si è portata via il bambino. Ora, in quelle zone, con un milione di dollari, il bambino te lo allevi alla grandissima, anzi lo mandi all'università. Sì. Per cui non si capisce perché gli ha portato via. Cioè, su quello che fanno i ricchi, diciamo così, eccentrici, le star, e in questo campo qua io ho parecchie riserve. Va bene, io qui mi devo fermare, devo dire che basta, la gente, l'ormone è un po' impazzito, la Gentile è un pezzo di figa immenso, ci scrive Carlo da Forlì, lei è una gran topa, un altro ascoltatore, e ispira tutto tranne che gli insulti. Cara Veronica, non lo so, regolati tu, poi dopo ci sentiamo. Ciao! Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Siamo qui, cari ascoltatori, sono le 7:18 minuti, puntuale ormai da anni, dopo la sveglia alle 5, siamo qui a leggere i giornali. E poi approfondiremo i temi, oggi parleremo ancora di questa polemica Sarri-Mancini, avremo ospite Demetrio Albertini, ex calciatore, dirigente, per capire se è davvero una polemica che ormai esula dal mondo del calcio, se è il mondo del calcio arretrato, se è il paese arretrato su queste tematiche, per cui si può dare del froce, del finocchio tranquillamente e dire ma sì, è una cosa che può succedere su un campo di calcio. Ne discuteremo tra poco, allora andiamo però a sfogliare i quotidiani. È giovedì 21 gennaio e presumibilmente e comprensibilmente le aperture, tutti i quotidiani sono dedicate al crollo delle borse. Affondano le borse, Milano meno 4,83% è il titolo di apertura del Sole 24 Ore, però C'è anche da segnalare che c'è l'intervista del nostro direttore Roberto Napoletano al premier Renzi. C'è una manovra su alcune banche, ma il sistema è solido. Comunque parla il Presidente del Consiglio e tra poco ovviamente vedremo l'intervista. Tempesta sulle borse, Milano affonda, così il Corriere della Sera. Per Repubblica, borse, il contagio è globale. Per La Stampa, il panico globale affonda le borse. Il Messaggero, banche, vertice d'emergenza. Per Il Fatto Quotidiano, Montepaschi travolge borse e governo. Libero invece, la Merkel ci affonda le banche. Il Giornale, ecco chi sta affossando la borsa. Come vedete i titoli sono tutti simili. Il Giorno, banche, attacco sospetto. Mentre l'Unità, svegliati Europa, i burocrati di Bruxelles si preoccupano del protagonismo italiano e borse e banche crollano. Avvenire invece, prima le persone, l'intervento del Papa a Davos. Stadio di famiglia è invece il titolo sulle unioni civili del Manifesto. Ma accantoniamo per un momento quelle che sono le notizie più importanti, le notizie di apertura, per vedere alcuni sviluppi di alcune notizie passate. La prima, Il Fatto Quotidiano torna con una nuova testimonianza sulla ormai mitologica rissa a Riyadh della delegazione italiana a seguito di Matteo Renzi per accaparrarsi il Rolex. Questa volta Carlo Tecce dice c'è un testimone oculare la cui identità Il Fatto conosce, ma che al momento vuole rimanere anonimo, che era lì e racconta che cosa è successo il giorno in cui Renzi è andato in Arabia Saudita con giornalisti, consiglieri, staff, militari al seguito. È successa una vera e propria rissa. Perché racconta il fatto, torniamo a Riyadh, ricostruiamo la scenata con le parole del testimone. Il parapiglia si verifica dopo la cena nei saloni del Palazzo Reale. La scorta di Renzi non aveva ancora ricevuto i regali, in parte custoditi dal personale di Palazzo Chigi, e allora la scorta ha incrociato i dipendenti del cerimoniale e sono andati verso le camere. La scorta a quel punto si accorge della differenza di dimensioni delle scatole dei regali, che fa percepire disparità di valore nei regali. C'erano orologi preziosi ma di categorie diverse, di una marca meno conosciuta e di Rolex. Questo suscita il malcontento. La scorta lo manifesta in maniera concitata, per non dire violenta. Il diverbio è tra alcuni funzionari del cerimoniale e gli uomini della scorta di Renzi. Da lontano assistono i diplomatici di stanza Riyadh. Il capo dei militari urla e costringe il dipendente del cerimoniale ad aprire il suo regalo, convinto che avesse scambiato le scatolette o influenzato i sauditi per ottenere un Rolex. E poi lui diceva di meritare un regalo migliore perché lui è un alto dirigente dello Stato. Ed è partita la rissa. C'è mancato poco che siano arrivati alle mani. Spintoni, insulti, testate simulate. Sapete quando tenetemi e simuli la testata? Peter Bescapè. Anni di discoteca, tu ne sai qualcosa. Cioè questo è avvenuto. Questo è successo. Secondo la testimonianza al Fatto Quotidiano, a quel punto interviene Renzi l'indomani e dice «requisisco tutti i regali, dateli tutti a me». E qui il Fatto dice «il Rolex di Renzi dove è finito?» Anche perché il testimone dice «ma certo che il presidente ha ricevuto un Rolex, credo il più prestigioso». Tutti gli italiani presenti a Riyadh, diplomatici, dirigenti, cineoperatori, giornalisti, cari colleghi, tutti hanno ricevuto un orologio. E vabbè, per i sauditi, cosa volete che sia un Rolex d'oro? Vabbè, questo è successo, il Fatto Quotidiano lo racconta a pagina 9. Oh, ma eccoci qua. Ripeto, non è una vicenda calcistica, non lo è più, ma gli insulti di Sarri che ha dato del frocio e del finocchio a Mancini, beh, sono intanto oggetto di dibattito perché oggi ci sarà la squalifica del giudice sportivo nei confronti dell'allenatore del Napoli. La squalifica, attenzione, bufera Sarri è il titolo di apertura della Gazzetta dello Sport. E ci potrebbe essere il verdetto soft, cioè due turni, sentite un po' con quale spiegazione, solamente due turni per questa tesi, perché Mancini è eterosessuale e quindi, non essendo una discriminazione, non essendo lui gay, avendo dato del froce e del finocchio a uno che è eterosessuale, è meno discriminatorio rispetto ad averlo dato a uno palesemente omosessuale. Comunque Mancini rilascia un'intervista a Repubblica. Non lo perdono, ha offeso la migliaia di persone. Pagina 15, intervistato da Andrea Sorrentino, dice Mancini: io non sono il paladino di nessuno, però come si fa, dai, a sentire ancora queste cose nel 2016? Lui ha offeso tante persone, tanti poveri ragazzi che in Italia o in altre parti del mondo vengono presi in giro, derisi da gente che pronuncia certe paroline con tanta facilità. Poi magari ogni tanto capita che qualcuno si suicidi perché non ce la fa più. Sono entrato nello spogliatoio dopo la partita. Ah, prima il cosa è successo in campo. Io gli facevo notare le offese, anzi facevo notare le offese anche al quarto uomo, e mi dicevano: ma dai, lascia stare. E lui mi insultava, faceva il gesto con la mano tipo vattelo a prendere nel... incredibile. Mi diceva frocio, finocchio. Poi sono andato in spogliatoio e allora ho risposto in malo modo, perché lui mi ha detto: ma che vuoi ancora? E qui Sarri accusa Mancini di averlo insultato a sua volta. Poi sono uscito, ho aspettato il quarto uomo e gli ho ripetuto perché avesse fatto finta di niente. E dice Mancini: mi avesse detto figlio di o pezzo di, non me ne fregava nulla, era chiaro che sarebbe rimasto un fatto di campo, ma è ora di finirla con certe offese quando ci sono persone che tutti i giorni le subiscono e ci si rovinano la vita. E ancora, Sarri, finita la partita, invece che chiedere scusa, faceva il simpatico dicendo che mi aveva chiamato democristiano. Così ha offeso pure i democristiani, dice Roberto Mancini. Un livello veramente basso. E poi lo stesso Mancini dice alla domanda: senta, ma dalle sue dichiarazioni notturne qualcuno ha creduto di capire che lei avesse fatto coming out dicendo effettivamente di essere omosessuale? Ma no, magari nella foga del discorso si è capito male. Ho detto che se gli uomini fossero tutti come Sarri, allora sarei orgoglioso di essere gay. Quanto al resto, però, a me piacciono le donne e solo quelle. Così Roberto Mancini, che chiude almeno la questione, visto che tutti lo chiedono, ma è gay Mancini? Almeno chiude questa questione dicendo così. Però le polemiche continuano. La caduta di Sarri è il titolo del Corriere, Gramellini dedica questo il buongiorno in prima pagina della Stampa. In tutto questo il Giorno scova una notizia che non c'entra con questa querelle, ma c'entra con Mancini. Proprio oggi sul Giorno finisce questa notizia: la tegola su Mancini, dovrà dare 40.000 euro di assegno mensile alla ex moglie Federica Morelli, da cui si è separato qualche tempo fa dopo 25 anni di amore. Così ha stabilito il giudice del Tribunale d'Ancona Mario Vincenzo D'Aprile nell'ambito della separazione giudiziale tra Mancini e l'ex moglie. 40.000 euro sarà l'assegno mensile che il mancio dovrà staccare alla moglie. A proposito di omosessualità, fa molto discutere, invece finisce sui giornali, la vicenda del programma di Paolo Bonolis, la trasmissione Ciao Darwin, perché è uscita questa notizia. Sapete che cercano nel pubblico, fanno i casting, quello che si chiama casting. Ebbene, è uscito un casting nel quale nel programma di Ciao Darwin cercavano razzisti e omofobi. Sapete che mettono contro, che ne so, i magri contro i grassi, i belli contro i brutti. Però cercavano anche razzisti e omofobi, evidentemente da mettere, fare omosessuale contro omofobi. Allora la polemica, la selezione è stata fatta il 12 gennaio, il Fatto Quotidiano dedica una pagina a razzisti e omofobi in TV, il casting alla Bonolis. Anche la Stampa, polemica su Ciao Darwin, visto che cercano razzisti e omofobi. Oh mannaggia, quante se ne sentono. Beh, questa che è finita sulla prima pagina della Stampa e che proviene dal Times, invece, è la notizia che mi fa più incazzare della giornata. L'articolo Mani sul volante. Succede a Middlesbrough in Gran Bretagna, dove un'azienda che ha costruito le case per i profughi ha fatto le case per i profughi con una differenza: mentre tutte le porte di casa di tutti gli inglesi sono verdi, quelle sono rosse, di un altro colore. Il marchio sulle case dei migranti. Alessandra Rizzo, in prima pagina della Stampa: case di profughi e rifugiati marchiate, tra virgolette, marchiate con porte d'ingresso rosse, diverse da quelle delle abitazioni vicine. E così facile bersaglio di attacchi vandalici e razzisti. Succede a Middlesbrough, nord-est dell'Inghilterra, alta intensità di immigrati. Riporta la notizia il Times, che parla di apartheid segreta, mentre un politico locale parla di segno di distinzione che ricorda la Germania anni 30. Che succede, tra l'altro, che molti immigrati hanno protestato, alcuni dici si sono trovati escrementi sul muro di casa, siamo additati, lì abita un profugo. Insomma, le porte rosse per marchiare le case dei rifugiati. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che, quando queste cose capitano, dice sono cose che capitano. State ascoltando un programma offerto da centrosoftware.com, i migliori ERP per gestire le imprese italiane. Anch'io, Alessandro Mila, e leggerai i giornali come uno che legge i giornali. E che tanki, Skei? Capito? Capito? Allora, cari ascoltatori, eccoci qui con la lettura dei giornali. Allora, se sentite dei tintinni ogni tanto, non è che ho gli orecchini, è che c'è la cuffia che perde dei pezzi, questi. Ecco, non è neanche un richiamo per le mucche o per le capre svizzere, ma se sentite questo tintinnio è che un padiglione della cuffia ha un pezzettino che da giorni è staccato e niente, domani porto l'attac, però sennò, ecco, sennò è un po' fastidioso, è un pochino fastidioso. Dite che sto esagerando? Non lo so. Va bene, comunque, questo è. Allora, le borse perdono moltissimi soldi. Pensate che, scrive il Sole 24 ore, in una seduta sono stati perduti e bruciati 233 miliardi di capitalizzazione. E soprattutto perdono le banche, e soprattutto due banche, Monte Paschi e Carige. E Stefano Carrere e Andrea Franceschi raccontano, uno da Tokyo, perché ovviamente l'onda lunga ieri è iniziata da Tokyo, e Andrea Franceschi da Milano, a pagina 5 del Sole, i numeri di questo crollo. Due banche, Monte Paschi e Carige, che hanno un livello di incidenza di crediti malati al 31,8% per Monte Paschi e al 24,6% per Carige, contro una media italiana del 18% sul totale degli attivi. E poi c'è il resoconto della giornata, ci sono le spiegazioni anche con Moria Longo del perché tutto si mischia, con il prezzo del petrolio che va giù, il crollo della Cina, evidentemente anche un po' di mancanza di fiducia nei confronti delle banche, anche un po' di effetto panico. Anche Stefano Feltri sul Fatto Quotidiano, vice direttore responsabile economico, racconta in un dossier a pagina 4 quanto dobbiamo temere per i risparmi e per il paese, cioè tutte le domande e risposte riguardo a questo momento molto molto difficile, alle quali risponde il presidente del Consiglio Matteo Renzi. Intervista del direttore Roberto Napoletano sul Sole 24 ore. Renzi dice tante cose sulle banche. Intanto la questione dell'Europa la prende da lì, non c'entra con le banche, ma l'Italia non mostra i muscoli con l'Europa, dice Renzi al Sole. Ma dobbiamo smetterla col provincialismo di chi passa le giornate a pensare che Bruxelles sia infallibile, anche perché purtroppo non sono infallibili alla Commissione. Dunque io non alzo la voce, alzo la mano e faccio domande. È giusto un approccio incentrato sull'austerity quando i populismi sono più forti nelle zone svantaggiate di crisi economica? È giusto avere due pesi e due misure sull'energia? È giusto procedere a zigzag sull'immigrazione? Gli alleati non mancano, glielo garantisco, tra l'altro, dice Renzi a Napoletano. E ancora poi la questione delle banche. Sulle banche Renzi la vede così. Intanto si doveva intervenire prima. 3-4 anni fa si è scelta un'altra soluzione sul tema della bad bank, e il bello è che qualche responsabile di questa omissione ora ci fa pure la morale. Ma bando alle polemiche, il ministro Padoan sta facendo miracoli sapendo che occorre un insieme di norme. Sì, riguardo alle banche non c'è un attacco, una speculazione, c'è una manovra su alcune banche, punto. Il sistema, secondo me, è molto più solido di quello che legittimamente alcuni investitori temono. Poi sulla vicenda Banca Etruria, Renzi liquida un po' tutte le polemiche anche che riguardano il papà del ministro Boschi, le sue frequentazioni con una figura discussa come Flavio Carboni e altre, massoni. Parla, liquida la vicenda così: non c'è alcun conflitto di interessi, il ministro Boschi lo ha spiegato in modo impeccabile. Comprendo le strumentalizzazioni interessate di parte delle opposizioni, ma la realtà è più forte delle strumentalizzazioni. Punto. E non dice una parola in più, appunto, sulle frequentazioni, eccetera. E infine, l'intervista è di due pagine, quindi questa è una sintesi. Confermo sul referendum: se perdo il referendum a ottobre, lascio la politica. Non sono come gli altri, non resto al potere se non posso cambiare le cose. Se vinciamo, concluderemo la legislatura regolarmente. Così Renzi, intervistato dal direttore del Sole 24 Ore, e lo trovate in prima pagina. Tra l'altro c'è anche un'intervista al commissario europeo per la concorrenza Margrethe Vestager, 47 anni, ex vice premier in Danimarca, ex vice primo ministro, che sulla bad bank dice: discutiamo con l'Italia. L'intervista è sul Corriere della Sera, intervistata da Francesca Basso e Federico Fubini. Stiamo chiedendo nuovi dettagli per arrivare a una valutazione completa all'Italia. Lavoriamo a stretto contatto con le autorità, abbiamo ricevuto le proposte la settimana scorsa, ci sarà un incontro tecnico già venerdì. Lavoriamo dunque per un accordo sulla bad bank con le autorità italiane, anche se non posso dare troppi dettagli, dice il commissario Vestager. E l'intervista la trovate a pagina 3 del Corriere della Sera. Tra l'altro, questa storia delle banche, la vicenda di Banca Etruria, secondo me la cosa che mi ha più colpito è quella che oggi riprende Libero, che i funzionari della banca, pur di vendere obbligazioni rischiose, avrebbero taroccato i titoli di studio dei risparmiatori per farli apparire più esperti. Che ne so, uno aveva le elementari e noi mettiamo sul modulo che è le scuole medie o il liceo, sei diplomato e mettiamo che sei laureato. Cioè proprio delle truffe alla Totò, questa è l'accusa. Dicevamo, Renzi nell'intervista non respinge tutte le accuse, parla di conflitto di interessi che non c'è, bisogna però fare in qualche modo un'incursione su Panorama, settimanale in questo caso, anche se di solito leggo i quotidiani a rassegna stampa, perché il settimanale Panorama con Antonio Rossitto racconta, pagina 39, un qualcosa che non si sapeva fino ad ora sul papà di Maria Elena Boschi, e cioè il Panorama ha scoperto che Pierluigi Boschi fu indagato nel 2006 per estorsione in un'inchiesta con molti punti oscuri riguardo l'acquisto, un acquisto immobiliare. Addirittura dice Panorama che nel 2010 il padre del ministro Boschi si trova coinvolto in un girone assai fosco, cioè socio di un imprenditore calabrese dipinto dalla direzione distrettuale antimafia di Firenze come un imprenditore legato alla 'Ndrangheta, promotore e garante di un affare milionario con cui si allunga l'ombra del riciclaggio, e accusato di aver ricevuto in nero 250.000 euro per la vendita di un podere. Per la verità, tutte queste indagini è stata archiviata. E chi ha archiviato questa indagine lo ha fatto Roberto Rossi, cioè lo stesso pubblico ministero che oggi è diventato procuratore della Repubblica di Arezzo, titolare del fascicolo su Banca Etruria, nonché, racconta Panorama, e come dicevano gli altri giornali già da qualche giorno, consulente dal novembre 2013 allo scorso dicembre per gli affari giuridici dei governi Letta e Renzi, cioè anche il governo in cui c'è Maria Elena Boschi. Insomma, questa inchiesta di Panorama è molto dettagliata, chissà se questo comporterà altre richieste di spiegazioni. Oppure no. In tutto questo è il momento di Mauro Meazza. Buongiorno, caro Mauro. Nota con che pausa, mi sono fermato un secondo. Tutto questo è il momento di Mauro Meazza. Buongiorno. Non hai questa volta non mi hai fatto precedere da epiteti curiosi, ricercati in qualche modo. Ecco. Poi procediamo nella massima serenità. Vogliamo rimediare? No, assolutamente. Facciamo. Stiamo così. Hai potuto prendere ieri il libro sulle novità delle pensioni? Sì. Bravo. Se per caso non avessi potuto acquistarlo, ti segnalo che oggi lo trovi anche in formato digitale sul sito del Sole 24 Ore. Nella sezione Store 24, però si dice Store naturalmente, ma loro lo spiego, lo dico così come è scritto all'italiana. Oh, ci sono tante cosucce sul Sole 24 Ore, già hai giustamente segnalato l'intervista del direttore al Presidente del Consiglio, ti segnalo anche, a proposito delle borse, tu e i tuoi due eurini, e i nostri eurini, insomma, affidati alle borse, c'è una bussola quest'oggi, sai che in queste situazioni spesso il Sole 24 Ore propone delle bussole per aiutare a capire che cosa sta succedendo e come si potrebbe muoversi. Poi, per carità, nessuno naturalmente può vantare la sfera di cristallo e mi spiace dirlo, nemmeno il Sole 24 Ore, ma proviamo a dare qualche consiglio. Oh, poi sai che ieri è stata giornatona, anzi seratona verrebbe da dire, non dal punto di vista calcistico, anche se c'è stata una altra quarto di finale di Coppa Italia, ma per la riforma Madia. Non vorrei che tu ti fossi scordato. La riforma Madia, sono stati varati i provvedimenti di attuazione, ne riferiamo, stai attento, sia nelle prime pagine del Sole 24 Ore, sia anche in quelle di Norme e Tributi, poiché tu leggerai giudiziosamente le prime, religiosamente le altre, non ti perderai nulla di quanto varato ieri. Ti segnalo peraltro che c'è una semplificazione molto importante per la SCIA, e tu fatichi a capire magari come può ricadere, no, è sul problema proprio di fare dei lavori in casa, ad esempio, cioè la segnalazione certificata di inizio attività. Tutti i particolari sul Sole 24 Ore, caro Milan. Oh, poi ti voglio dire, io adesso non vorrei essere accusato di così aver portato male, ma si sta complicando la precompilata. Sulla questione delle spese mediche. Sì, con quel lapsus ho fatto così, ho portato un po' male, ma riferiamo oggi appunto in Norme e Tributi che si sta studiando una mini proroga di una decina, una quindicina di giorni, proprio perché ci sono dei problemi con la fornitura dei dati di tipo sanitario, quindi c'è una precomplicazione sulla precompilazione, ecco, se vogliamo chiuderla così, però non è colpa mia, giuro, mi limito a segnalarlo. Oh, e poi infine vedo che continui a non insultarmi, a mantenere una plomba. Perché non mi insultasti? No, non so, perché magari potevi darmi del lavoratore, visto che non lo sono e io viceversa naturalmente per te. E volevo dirti, c'è una sentenza interessante sugli autovelox. Tutti all'ascolto. Attenzione, perché anche se l'autovelox non si vede, ma ci sono i cartelli che dicono tratto di strada, eccetera eccetera, insomma dei cartelli che avvisano, è la multa, niente da fare, la multa autovelox è valida. Così puoi apprendere in Norme e Tributi tutti i particolari sul Sole 24 Ore di oggi. Caro Alessandro, traffico! Alessandro Milan, il John Holmes dell'informazione! Caro ascoltatore, allora 02465244492, lo devo ridire che ho sbagliato, 02465244492, è la nostra segreteria telefonica. Se non avete fatto in tempo a prendere, andate sul sito di Radio 24, nella nostra trasmissione, nella sezione 24 mattino, ci sono tutti i numeri. Vi svelerò questo segreto, i numeri, le mail, le foto di Lorenzo Nespoli, le foto di Peter Bescapè, le foto di Elisabetta Fusconi. Insomma, c'è tutto. Ci conoscerete anche in maniera diretta. Allora, Berlusconi invece è comparso ieri alla presentazione del libro di Mirta Merlino e ha detto: gli italiani non mi meritano, così, visto che non mi hanno mai dato il 51%, qua c'è sempre il solito errore, in realtà vuol dire il 50% più uno dei voti, io però devo rimanere in campo perché senza di me il centrodestra arriva terzo alle elezioni. Con me invece si può arrivare al 40%. è un Berlusconi dunque che torna, ma un po' così in sordina, viene trattato dai giornali. Tra l'altro la battaglia invece politica del momento, nel giorno in cui ieri il Senato ha dato il via libera definitivo, no definitivo, manca il sì della Camera, ma l'ennesimo via libera alla riforma costituzionale, ora ci sarà la Camera, poi ci sarà il famoso referendum al quale Renzi lega il suo destino politico. Ma l'altra notizia politica del giorno è la discussione sulle unioni civili. Ogni giorno c'è la sua o pena o discussione. Il nuovo fronte, mentre si profilano le manifestazioni di coloro che sono pro questa legge, le manifestazioni di coloro che sono contro, cioè il Family Day. Ecco qui l'emendamento dei cattolici del PD. Prevedere pene fino a 12 anni di carcere per chi ricorre all'utero in affitto anche all'estero. In Italia è già vietato. Utero in affitto vuol dire, insomma, andare da una donna, farla partorire e poi prendersi il bambino in base a un reciproco contratto, ovviamente. L'emendamento dei cattolici del PD è questo: prevedere pene fino a 12 anni anche per chi va all'estero. Tra l'altro Massimo Franco sul Corriere della Sera fa invece un retroscena, pagina 11, per raccontare come la Chiesa, le varie anime della Chiesa, da Bagnasco al Cardinal Ruini, a Nunzio Galantino, segretario della CEI, come ognuno si pone, ognuno poi rappresentante di una parte della Chiesa, si pone di fronte a questa legge. Per la cronaca mi ha colpito, sapete che è un tema a noi caro, ne abbiamo parlato varie volte, quello degli abusi edilizi, mi ha colpito ciò che racconta in prima pagina della Stampa. Questa storia che viene da Andorra, in provincia di Savona. Ad Andorra abusi edilizi ogni 20 metri. Pensate, è una storia che affonda le radici in decenni e decenni di abusi, come viene violentato il territorio italiano. Giuseppe Salvaggiulo racconta: i faldoni sulla frana di Andorra che 2 anni fa travolse l'Intercity Milano Ventimiglia avrebbe potuto uccidere 200 passeggeri se un costone di roccia non l'avesse bloccato a pochi centimetri dalla scarpata, sono più di un'inchiesta penale chiusa con 5 indagati. Raccontano un piccolo e tragicomico romanzo criminale di nefandezze, tracotanze, furberie, ignavie, incompetenze, negligenze, ordito da un campionario provinciale di padroncini, mezze maniche, politici, geometri, palazzinari. Inizia così questo racconto che poi prosegue in tutta pagina 11. Ad Andorra in pratica si registrano in questi decenni un abuso ogni 20 metri. Vi segnalo questa pagina perché è emblematica, molto emblematica di come avvengono alcune cose in Italia. Vi segnalo anche la vittoria di Giuseppina Nardangeli. E chi è, direte voi? Giuseppina Nardangeli sul Giorno è una disoccupata, vedova, 62enne, baciata dalla fortuna. È entrata a giocare alla slot machine in uno dei luoghi dove si può giocare, a San Benedetto del Tronto, e ha vinto 470.000 euro. Con tanto di intervista di Marcello Iezzi sul Giorno: che farà? Che farà ora con questi soldi? Beh, comprerò un piccolo appartamento così da non pagare più l'affitto, che per me è un'ossessione. Poi voglio tornare in Svizzera, dove manco da 40 anni a trovare i miei fratelli. Loro ancora non lo sanno che ho vinto 500.000 di euro. Ecco, adesso lo sa tutta Italia, lo sa tutta la Svizzera forse anche. Insomma, non lo so se è il caso, era il caso di esporsi così. Comunque, questo è. Oh, che hanno fatto invece a Siena? A Siena hanno detto no alla regina Elisabetta. La sapete questa? A Siena la regina Elisabetta ha chiesto, per la verità un'agenzia inglese vicina alla corona, ha chiesto che le contrade del Palio di Siena andassero a festeggiare la regina Elisabetta per i 90 anni, partecipassero. E a Siena dicono: non siamo mica al circo, se la regina Elisabetta vuole venire qui, venga lei, regina Elisabetta, a vedere il Palio di Siena a Siena. Non che noi dobbiamo andare a London, a Buckingham Palace. E quindi il Palio dice no alla regina Elisabetta. Se vuol vederci, venga lei a Siena. Pagina 17 della Stampa. Siamo alla carta costa. oggi devo accomunare una serie di articoli. È partito il dibattito perché un ristoratore romano ha esposto il cartello «Qui non sono graditi i bambini». C'è stata una querela, una denuncia, il dibattito sui giornali, due pagine su Repubblica, una pagina sul Giornale, una pagina sul Corriere della Sera. Mamma, posso entrare al ristorante? Ma signori, italiani, portate i bambini nei ristoranti dove sapete che i bambini sono accetti, ben accetti, sono ben voluti e non rompete. Ma con questi dibattiti, un saluto anche dall'anello della cuffia. Ma chi se ne frega!